presenta il suo primo radiodramma, Villa Caterina. Pronto? Ehi, un attimo che cerco un posto tranquillo. Sì, capito, sì. Siamo quasi a tetto. Sì, lo so che è fondamentale. Lo chiedi a me, chiedilo a quelli dell'agenzia. Ho capito, ci penso io. Dammi un minuto, dai. Quanto lago si vede? Ah, solo dall'ultimo piano. E allora residenza Miralago non funziona. E quelli dei piani sotto secondo me si incazzano. Panorama? Panorama ce n'è. Facciamo residenza panoramica, eh? Ah, ce n'è già una nella stessa via. Sì, ti ho detto che sto pensando, sì. Cos'è che c'era prima di tirar giù tutto? Qualche fattoria, un torchio? Al vecchio torchio, sì, fa un posteria. Sì. Dei rustici? Con qualche nome da Ticino di una volta? Niente. Beh, dai, un po' di sole ci sarà. Così la chiamiamo casa estate o la raggiante, no? Sempre ombra. Beh, allora è meglio non mettercelo. Sì, adesso te lo trovo. Dammi un momento. Quel grosso albero che abbiamo tagliato per far posto alla piscina. Ah sì, dai. Quello che c'aveva un tronco con un metro di diametro. Ma dai, come cazzo fai a non ricordartelo? Ci avrò avuto 1000 anni? Sì, quello lì che appena abbiamo tirato giù sono arrivati i verdi con gli striscioni e i megafoni. Ci sono rimasti veramente di merda. Sì, sì, pensavano che lo tiravamo giù il giorno dopo. Quell'albero lì. Che pianta era quello lì? Informati, no? Allora, in giro io ne ho visti, di case con nome di piante. Ho visto Casa Oleandro, Residenza Altiglio. Cosa? Cos'è che stai dicendo? Ma sì, lo so che tiriamo su metri cubi di cemento armato e poi cerchiamo i nomi di piante. Ma facciamo come le pubblicità delle auto, no? Come, in che senso? Te, una pubblicità di un'auto, hai già visto uno in coda fermo col gomito fuori che si fuma un pacchetto di sigarette? Bravo, esatto. Tutti a 100 all'ora in riva all'oceano sui tornanti in montagna. E allora noi, la nostra palazzina, in beton, gli diamo un bel nome di pianta. Sì. Hai trovato il nome di sta pianta? Ah, Faggio Rosso. Sì, ho capito. Faggio Rosso. Ma Residenza Faggio Rosso... Residenza Faggio Rosso non va, dai. Sembra il nome di un centro scout. Non una residenza per russi pieni di soldi. Magari in inglese suona meglio. Sì, adesso secondo te io so come cazzo si dice faggio in inglese. Ah, c'è lì un tuo operaio del Senegal che sa l'inglese. Chiedigli, dai. Beach? A me non sembra male, beach. E residenza in inglese com'è che si dice? Cosa? Beach in inglese non è una così bella parola? Dai, lasciamo perdere ste piante e non tiriamo fuori niente. Sì. Ce l'ho. Sì, se ce l'ho. La vecchia. Come non te la ricordi la vecchia? Dai, quella che si aggrappava alla porta. Che l'ha dovuta portare via in due. Continuava con quella tiritera. Sono andata qui, voglio morire qui. Ma sì, adesso sarà in casa per anziani. Sì, due bene in discarica abbiamo portato. Come cazzo si chiamava quella vecchia lì? Sì, era qualcosa in Nina, sì. No, non Luigina. No, neanche Angelina. Caterina? Dici Caterina, eh? Sì, Caterina. Villa Caterina. Per me? Ah, per me è perfetto. Una sceneggiatura di Christian Bubula da un soggetto di Olmo Cerri. Scritta nell'ambito concorso città invivibili www.tichino.ch.